Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Ormai il titolo della mia trasmissione ce l'avete in testa, chiaro: Sottotiro. Bene, lasciamo da parte un momento il sottotitolo, che è Storie di mafia ed antimafia. Concentriamoci su questo sottotiro. Oggi racconteremo infatti una storia un po' particolare, che con la mafia tradizionalmente intesa non ha nulla a che fare, ma che vede un collega giornalista sottotiro non di una mafia tradizionale, ma di una cultura che diventa una cultura di intolleranza, portatrice di disvalori, che pongono quest'uomo quotidianamente, ormai da anni, sotto tiro. Il collega si chiama Nello Rega ed è un collega della RAI che ha avuto la disavventura di scrivere un libro che si chiama Diversi e Divisi, diario di una convivenza con l'Islam. L'ha scritto nel 2009, quindi recentemente, questo libro che racconta in maniera assolutamente normale, pacifica, democratica, civile in un paese occidentale, il suo rapporto con una donna della quale è stato innamorato, ha creato un tale malumore, odio nei confronti delle frange estreme degli Hezbollah che hanno in un certo senso condannato a morte Nello Rega. Stiamo parlando di una storia, secondo me, assolutamente folle e paradossale, che va avanti da ormai più di un anno in un silenzio quasi tombale. Il collega Cazzullo recentemente ha scritto un bellissimo articolo sulla storia di Nello Rega. Ricorderete che noi nel passato ce ne siamo interessati. Oggi torniamo a farlo perché oggi ad Aliano, in provincia di Matera, viene consegnata la cittadinanza onoraria a Nello Rega e vogliamo capire se è ancora sotto tiro o meno. Buongiorno Rega. Buongiorno e grazie per l'invito alla tua trasmissione. Allora, è ancora sotto tiro? Sono ancora sotto tiro, nulla è cambiato se non qualche misura di sicurezza un po' più elevata, ma una sicurezza che è a macchia di leopardo, quindi potrei essere colpito in qualunque momento. Ma soprattutto la cosa drammatica è l'assenza di risposte da parte dello Stato. Ecco, questa è qualcosa che prima fuori onda, parlandone con il collega Rega, ci siamo detti. Il problema vero è che in Italia non risponde più nessuno, cioè non risponde più nessuno delle grandi stragi di Stato, non risponde più nessuno delle grandi stragi di mafia, non risponde più nessuno dei grandi accadimenti. Rega, ma come possiamo pensare, come fai a essere così ingenuo da pensare che lo Stato risponda al tuo problema di sicurezza personale? Ma cosa vuoi che gliene freghi allo Stato, Nello? Detta così non fa una piega, però quando si fa per una politica nella quale si sventola la necessità di sicurezza, di stare dalla parte dei cittadini, qualcosa non va. Assolutamente, ovviamente la mia era una riflessione amara e volutamente paradossale, perché tu non è che stai giocando con la vita, stai purtroppo danzando con la morte, perché ricordiamo che a Rega sono arrivati proiettili, una testa di agnello, vari pedinamenti, posizioni che nessuno conosceva se non pochissimi intimi, che invece sono state conosciute da chi poi lo ha intimidito più di una volta, o sbaglio Rega? Sicuramente c'è un gruppo che mi ha preso di mira. Quello che io vorrei dallo Stato, una risposta come cittadino. Una volta si diceva il cittadino che paga le tasse, no? E che per me va ancora bene come dovere civico. Vorrei da parte dello Stato una risposta. Dovrebbero dirmi: sono dei ragazzini folli che vogliono solo giocare, allora io sarei tranquillo e beato, ma questa non è la verità. Certo. Lei ha bisogno di una protezione. Ad oggi le stiamo dando una protezione a macchia di leopardo che serve a poco, che comunque costa lo Stato, costa ai cittadini. Vorremmo darle una sicurezza maggiore affinché lei possa vivere serenamente. Io non ho bisogno di un'automobile, di un autista o della benzina. Io vorrei vivere come vivono tutti gli esseri umani. Certo. Soprattutto in libertà e con la libertà di poter scrivere. Noi siamo giornalisti, io sono legato fortemente come te all'articolo 21 della Costituzione, la libertà di poter esprimere, certo, assolutamente, il nostro pensiero. Assolutamente, poi è una cosa folle che nel nostro paese dobbiamo avere la minaccia di morte che arriva da chi come gli Hezbollah, comunque da chi come gli integralisti islamici, è sicuramente portatore di valori che con i nostri valori non hanno assolutamente nulla a che fare. Senti Rega, scusami, ma una cosa, va, le indagini a che punto stanno? Cioè, qualcuno ti avrà detto qualcosa, stiamo proseguendo l'attività investigativa, siamo arrivati a questo punto, oppure anche sul fronte investigativo non c'è nulla di nuovo? L'attività sta andando avanti, ci sono i ROS che seguono le indagini con un PM antiterrorismo di Roma, soprattutto sono facilitate da tanti elementi che ho detto loro, quindi dando anche degli spunti investigativi, dando anche, diciamo, dei riferimenti certi e che loro hanno avuto la possibilità di verificare. Spero che si concludano, certo, velocemente. Certo, certo. Delle indagini che tu sai benissimo nel nostro paese possono durare anche anche decenni, infatti. Io vorrei essere messo in condizione di poter vivere tranquillamente. Ecco, vorrei che lo Stato mi dicesse: lei per la sua sicurezza deve contribuire con tot soldi. Certo, lo farei, sì, certo. Ricordiamo così, en passant, anche questo, che Rega, addirittura i familiari di Rega sono stati comunque attenzionati, nel senso che tutti gli spostamenti di Rega, quando si sposta in giro per l'Italia per andare a trovare ad esempio i suoi familiari, sono assolutamente attenzionati. Una cosa, visto che il tuo libro parla della difficile convivenza tra Islam e Occidente, tra diciamo così, due mondi difficili che è difficile che possano comunicare, ma dal mondo islamico una qualche attenzione e benevolenza ti è giunta, oppure anche lì silenzio tombale? Assolutamente nulla, non è giunto nulla. Vorrei specificare che il libro non è un giudizio, è la constatazione da giornalista con la massima dell'obiettività possibile che noi siamo diversi, e questo lo sapevamo, le diversità sono un patrimonio che arricchisce, certo, ma siamo divisi anche da questo, perché da noi Vauro può fare le sue vignette contro il Papa, Emilio Fede può fare il suo telegiornale contro X o Y, noi abbiamo il potere del telecomando o della, certo, radio, spostare la frequenza, ma da noi non esiste questa possibilità che uno si alzi la mattina e decida tu devi morire. Questo ci rende ancora più divisi. Assolutamente, io ringrazio Nello Rega per il suo intervento oggi ad Aliano, cittadinanza onoraria. A Nello Rega continueremo a seguire la sua storia. Dico grazie a regia Filippo Oreggi, in studio Laura Fagin e Roberto Calullo, vi auguro una buona giornata.